Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Adesso voi, quando accendete la televisione, vedete le cosiddette fiction e vedete, insomma, attori più o meno improvvisati, copioni traballanti, facce palesemente da raccomandati che vengono scaraventate a recitare delle battute improbabili leggendo il gobbo. E una volta non era così, perché prima di tutto questo ci sono stati i mitici sceneggiati Rai, che sono stati uno dei momenti più alti della produzione televisiva mondiale. Gli sceneggiati della Rai erano ben fatti, erano recitati benissimo, anche l'ultima comparsa, quella dove c'era scritto un passante, erano dei grandissimi attori, e poi erano basati su opere letterarie oppure basati su sceneggiature che venivano scritte appositamente, ma non dall'ultimo raccomandato, scritte da degli scrittori. Erano produzioni veramente di livello alto, e complice il fatto che una volta c'era un canale solo, tu vedevi la mattina al bar gente che commentava i fratelli Karamazov o il mulino del Po e non le vicende televisive dei giorni nostri. Nell'idea nobile dei dirigenti della Rai era usare il mezzo televisivo per elevare culturalmente la nazione, cosa che avvenne, perché ricordiamoci che in quel periodo in Italia c'era ancora l'analfabetismo, c'era il maestro Alberto Manzi che insegnava a leggere e scrivere in un programma che si chiamava Non è mai troppo tardi. Quindi lo sceneggiato televisivo era, come dire, la conseguenza di un processo di culturalizzazione molto ben fatto. È un processo che passava attraverso grandi registi che si chiamavano Anton Giulio Maiano, Daniele Danza, Mario Landi, Sandro Volchi, e gli attori erano i giganti della recitazione. Perché accendevi la televisione e trovavi Albertazzi, Volontè, Enrico Maria Salerno, Giancarlo Sbragia, Alberto Lupo, Lea Massari, Gino Cervi, Lapagnani, Buazzelli, e potrei andare avanti per tutta questa ora. Gli attori, peraltro, in quegli anni erano molto gratificati, erano dei divi, avevano una grande popolarità, come succede oggi con quelli che vanno in televisione e non si sa perché ci vanno. Oggi noi vogliamo celebrare uno di quei grandissimi interpreti. È stato un attore bravissimo, sensibile, di grande cultura. Il nostro protagonista di oggi è il grande Luigi Vannucchi. Sei triste, vero? Perché io me ne andrò e tu mi perderai. Ma per te resterò uno stupendo ricordo. Hai visto un genio all'opera nell'atto di creare. Promettimi che parlerai di me, eh? Non portarti il segreto nella tomba. L'umanità ha il diritto di sapere qualcosa su di me. Pensa un po' se i quattro evangelisti fossero stati analfabeti. Oh, ma almeno sai scrivere. Ti ricordi all'inizio come erano stupidi i nostri piani, eh? Piani da imbecilli. Allora la cosa ti entusiasmava ancora e ti interessava. Certo, benissimo, ci procuriamo una mazza di ferro e facciamo fuori il guardiano. Pum! Come Montecristo. L'uomo parte sempre dal basso. Che esseri antidiluviani eravamo. La vittoria è sempre dello spirito. Questo era lui, era Luigi Vannucchi nel monologo La scuola dei geni di Nicolas Hubei, un bellissimo soggetto del 1978 con la regia, tra l'altro, di Andrea Camilleri, che è stato un grande amico e compagno di accademia di Vannucchi. Sicuramente nel panorama televisivo e teatrale degli anni di cui stiamo parlando, quindi anni 50, 60 e 70, Luigi Vannucchi ha rappresentato una delle massime espressioni del talento interpretativo. Peraltro ha avuto un repertorio vastissimo, dai tragici greci ai contemporanei, ha creato una carrellata di personaggi indimenticabili che fanno parte della storia della nostra televisione. E quindi siamo felici di raccontare chi era stato anche fino al tragico epilogo del suo passaggio terreno e farlo ricordare anche da chi ha avuto il piacere di vederlo nelle sue grandi performance, anche per farlo conoscere a chi è più giovane, magari sa poco di lui. Luigi Vannucchi nasce il 25 novembre del 1930 a Caltanissetta, in una famiglia colta, agiata. La prima parte della sua infanzia la passa a Roma. Nel 1942 il padre accetta di lavorare all'ufficio del catasto di Modena e ci si trasferisce lì. Luigi frequenta il liceo classico con grande profitto, è un ragazzo studioso e appassionato di letteratura. E poi però, terminato il liceo, Luigi dichiara ai genitori di voler fare l'attore. La cosa non piace in famiglia. Contro la loro volontà si trasferisce a Roma ed entra all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, la famosissima scuola di Silvio D'Amico, dalla quale sono passati quasi tutti. Ogni qualvolta raccontiamo di un attore, alla fine si passa da quell'accademia. Lui si diploma nel 52 assieme a Glauco Mauri, a Franco Graziosi e al allora allievo regista Andrea Camilleri, insomma un parterre de roi. E fin da subito è chiaro a tutti che Gigi, così lo chiamano, è un ragazzo promettente, tanto che il grande Orazio Costa, suo insegnante, ma soprattutto grandissimo regista, uno dei massimi esponenti della pedagogia teatrale europea del Novecento, lo fa debuttare ancora prima che si diplomi. Il lavoro è Donna del Paradiso e lui interpreta il ruolo di Gesù. È appena diplomato, ha 22 anni, e arriva un altro colpo d'ala, perché Vittorio Gassman, che è già Vittorio Gassman, lo vuole con sé nella sua compagnia teatrale che si chiama Gassman Squarzina, compagnia destinata a rappresentare l'eccellenza del nostro teatro di quegli anni, destinata a produrre tra l'altro la versione completa dell'Amleto di Shakespeare per la prima volta in Italia. Il falco e il gabbiano. E per la prima volta in Italia viene rappresentato l'Amleto di Shakespeare in versione integrale. Fino a quel momento c'erano sempre state delle messe in scena di versioni ridotte e magari anche censurate, e adesso invece la compagnia Gassman Squarzina, che ha appena soldato il nostro protagonista Luigi Vannucchi, si cimenta con Shakespeare. Di alcune di queste rappresentazioni ci sono anche delle riprese televisive in bianco e nero, le potete trovare anche su YouTube. Vannucchi deve confrontarsi con il mattatore per eccellenza, con Vittorio Gassman, eppure riesce sempre a tenergli testa, a non scomparire sulla scena. Chi lo conosceva bene, come Andrea Camilleri, racconta che lui era già in grado di ritagliarsi il suo spazio senza per questo essere esageratamente competitivo. Lo chiamò Gassman, no? Ma lui in scena riusciva a non farsi sopraffare da Gassman, non ingaggiando con lui una battaglia. Io non credo che Gigi in palcoscenico abbia mai ingaggiato battaglie con nessuno. Era troppo generoso d'animo, ma come competizione, questo sì, ma non cosciente, nel senso che più Gassman navigava fuori del pentagramma, più il rigore artistico di Gigi lo teneva dentro il pentagramma, ma dentro quel pentagramma egli ne sapeva sfruttare tutte le possibilità. Quindi era bellissimo vedere queste due personalità confrontarsi, forse il verbo giusto, in scena. E poi nel 54 Vannucchi passa alla compagnia Teatro Nuovo di Gianfranco De Bosio. Nel 55 parte per una lunga tournée nell'America del Sud. Gli attori che partecipano a questa tournée si chiamano Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Glauco Mauri e Tino Buazzelli. Quattro altri giganti. L'anno dopo collabora col Teatro Regionale Emiliano, nel 57 viene scritturato al Piccolo Teatro di Milano e lavora con Strehler. Arriviamo agli anni 60 e sta nascendo la fiorente stagione televisiva della Rai, i grandi sceneggiati di cui ho parlato all'inizio della puntata. Luigi Vannucchi diventa da subito uno dei grandi protagonisti di questi sceneggiati, arriverà a realizzarne oltre 30 in 20 anni, un record. Inizia a lavorare con i grandi registi, Daniele Danza, con lui fa Il fu Mattia Pascal di Pirandello e poi Ritratto di donna con Edmo Fenoglio e poi lavora molto col grandissimo Anton Giulio Maiano, Chiamami bugiardo, Il giro del mondo, Una tragedia americana. Parliamoci francamente, Clyde. Io ho l'abitudine di essere sincero, come si suol dire, fino alla brutalità. La simpatia e la stima che mio padre ti dimostra sono ormai di dominio pubblico e io non posso né voglio schierarmi contro di lui. Specie agli occhi del mondo, quando tutti sanno che tu sei veramente uno dei Griffiths. Qualcuno poi potrebbe interpretare questa mia ostilità nei tuoi riguardi come una specie di gelosia. Gli scemi non mancano mai. Chi mi conosce sa che sono troppo presuntuoso per provare un sentimento del genere. Ma una simile supposizione da parte degli altri mi seccherebbe molto. Insomma, ti sto offrendo una specie di alleanza. Con tutto il cuore, Gilbert. Sai quanto ci tengo. Ma che cosa mi chiedi in cambio? Niente. Di pensare solo a far carriera e ad avere successo. E io ti aiuterò in questo. Ma non mirare troppo in alto fuori dalla fabbrica. Se poi non potessi farne a meno di mirare in alto, cerca di mirare giusto. E Luigi Vannucchi lavora moltissimo con Anton Giulio Maiano e partecipa a molti sceneggiati diretti proprio dal grande regista. Parliamo di Delitto e Castigo di Dostoevsky, parliamo di Prima di cena di Rostov, della Maschera e la Grazia di Giacosa, dell'Ammiraglio di Mario Tobino. Poi nel 63 interpreta Guido Cavalcanti nella Vita di Dante per la regia di Cottafavi e nel 65 inizia un'altra proficua collaborazione con un altro grandissimo regista, Sandro Bolchi. E qui c'è Giulio Cesare di Shakespeare, dove è Bruto. E poi nel 67 c'è uno dei colpi d'ala più importanti e grandiosi della sua carriera, perché Bolchi dà vita a uno degli sceneggiati più famosi, mitici della Rai, una produzione grandiosa, I promessi sposi di Alessandro Manzoni, con tantissimi attori, perché i personaggi di Promessi sposi sono tanti e vengono chiamati tutti i più grandi attori, e lui, Vannucchi, interpreta magistralmente Don Rodrigo. E quello che sentiamo è uno spezzone in cui Don Rodrigo parla con un Fra Cristoforo che cerca di riportarlo, come dire, alla retta via, e Fra Cristoforo è un altro grande, Massimo Girotti. Già che lei crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla, ok? Io non sono cavaliere. La vostra protezione. È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più fare paura. Lucia è sicura da voi. Ve lo dico io, povero frate. E in quanto a voi, sentite bene quel che vi prometto. Verrà un giorno in... Escimi di tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato, villano rincivilito. Ringrazia il saio che ti copre con queste spalle di mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari. Esci con le tue gambe per questa volta! Adesso andatevi a vedere una fiction, anche 30 secondi di una fiction di quelle che fanno oggi, per capire che insomma qui stiamo parlando di massimi livelli, di recitazioni da maestro, di produzioni che fecero scalpore, ebbero un successo straordinario, milioni e milioni di italiani che finalmente conoscevano la storia dei Promessi sposi, che entravano in contatto con i grandi temi della letteratura, della drammaturgia. Pensate, lo dicevo prima, prima, che gli italiani che parlavano dei Karamazov al bar davanti al cappuccino della mattina. E questo sceneggiato proietta Vannucchi alla notorietà più clamorosa, perché comunque Don Rodrigo era all'interno dell'immaginario collettivo anche di quella Italia che si affacciava al mondo della cultura. Poi in quel periodo lavora anche al cinema, anche se non farà mai dei grandi film, però c'è L'Arcidiavolo di Ettore Scola, Il Tigre di Dino Risi, entrambi con Gassman. Poi ci sarà La Tenda Rossa sulla spedizione di Nobile, poi sarà nel cast dell'Assassinio di Trotsky con Richard Burton e Alain Delon, girerà un film con Rossellini Anno 1, però il cinema non riesce mai a valorizzarlo completamente, non è il suo mezzo espressivo migliore, e forse perché gli danno ruoli minori, e forse questo è un crucio nella carriera straordinaria di Vannucchi, uno che in teatro e in televisione ha dato veramente un contributo impagabile alla storia della cultura di questo paese. E nel 69, dimostrando grande versatilità e grande confidenza sia con i grandi classici che con il teatro più contemporaneo, entra di nuovo nella casa degli italiani con un altro grande sceneggiato, Giocando a golf una mattina, tratto dal romanzo di Francis Darbry, 6 puntate bellissime con Aroldo Thieri, Giuliana Loiodice e Mario Carotenute, un giallo in cui lui e Vannucchi interpreta l'ispettore di Scotland Yard Jack Kirby, che indaga sulla morte di suo fratello, un campione di golf. E allora? Scusi, ma quella ragazza, quella che le ha telefonato facendosi passare per me. Sì. Per caso non si ricorda se aveva un accento particolare? Beh sì, un accento del nord, mi sembra. Ah sì, e anche un difetto di pronuncia. Senta, io non l'ho portata qui per parlare delle telefonate o dei difetti di pronuncia delle sue amiche, ma semplicemente perché mi ha detto di sapere chi ha ucciso mio fratello. Sì, infatti. E allora? Se io le dico di suo fratello, se le racconto quello che è accaduto la sera prima in cui fu ucciso, lei mi fa una promessa? No, mettiamolo subito in chiaro. Io non sono in condizione di prometterle nulla, nulla di nulla. Ma perché? Perché non sono io ad occuparmi del caso Stewart. In questo momento, anzi, ufficialmente non ho nessun incarico perché sono appena stato trasferito a Londra. Non solo, ma sto correndo un bel rischio ad averla portata qui invece che a Scotland Yard. Però se mi dice tutto quello che sa di mio fratello, è evidente che farò il possibile per aiutarla. Più di così non posso promettere. Il Falco e il Gabbiano. Oggi stiamo parlando di un gigante della recitazione, Luigi Vannucchi, uno dei più sensibili e colti attori italiani, elegante, raffinato, ma dalla personalità molto complessa. Un attore che oggi non sempre viene ricordato, ma è stato protagonista per quasi 3 decenni della scena teatrale e televisiva italiana. Ha lavorato con tutti i più grandi registi, con gli attori e le attrici più bravi e famosi, ha portato sui palcoscenici di tutta Italia e anche all'estero i grandi classici, ha conquistato il pubblico più vasto grazie alle sue interpretazioni magistrali nei grandi sceneggiati televisivi della Rai. E nel nostro racconto siamo arrivati al 1970, l'anno in cui Vannucchi, diretto ancora da Sandro Bolchi, dà vita a uno dei suoi personaggi più riusciti, e ve lo dico perché io ero incollato davanti alla televisione, avevo 13 anni. Stiamo parlando del barone Carlo Coriolano di Santa Fusca, protagonista dello sceneggiato Il Cappello del Prete, tratto da un bellissimo romanzo di Emilio De Marchi. È considerato uno dei primi romanzi polizieschi in lingua italiana. Vannucchi dipinge con una maestria unica un personaggio complesso, un barone in declino, diciamo, la cui famiglia è in declino, e che è un libertino, un nichilista, un amante del gioco che è sull'orlo della rovina per debiti non pagati. Spinto dalla disperazione, si rivolge a un usuraio. L'usuraio è un prete ricchissimo, Don Cirillo, e il barone novello Raskolnikov decide di rubare il patrimonio che il prete ha accumulato con i suoi affari terribili e di ucciderlo. Poi nasconde il corpo del prete in un pozzo, ma dimentica il cappello, che diventa l'indizio della sua colpevolezza. È uno sceneggiato bellissimo, dostoevskiano chiaramente, affronta il tema del delitto e del castigo e del rimorso e dell'espiazione. Vannucchi ne è l'interprete perfetto. Che fatica, povero barone. Che cosa aveva detto prete Cirillo? Ah, certo, che voleva partire, anzi fuggire da Napoli, perché la gente lo minacciava di continuo. Eh sì, nel romanzo e anche nello sceneggiato televisivo viene messo in evidenza il confine sottilissimo tra ciò che è giusto e ciò che non è giusto, il contrasto a volte che c'è tra le leggi dello Stato e le leggi della vita, della natura e dell'etica. E poi nel gennaio 72 arriva forse l'interpretazione più popolare di Luigi Vannucchi, perché riesce a caratterizzare lo scienziato John Fleming nel sceneggiato A come Andromeda, per la regia di Vittorio Cottafavi. È un remake di uno sceneggiato inglese e stiamo parlando di fantascienza. È una trama tuttora molto popolare tra i cultori del genere, è considerato forse il miglior sceneggiato mai realizzato dalla Rai, anche grazie alla splendida interpretazione di Vannucchi, che peraltro era un grande appassionato di fantascienza, che quindi trasmette questa sua passione all'interno del copione, dimostra tutta la sensibilità di interprete che ha, crea un personaggio dalle molte sfaccettature. Ti farò delle domande, risponderai sì o no, positivo o negativo. È così che comunichi col calcolatore, vero? Bene, cominciamo. Ti ha mandata il calcolatore? Sì. Conosci il programma del calcolatore, quello contenuto nella sua memoria? No. Allora ricevi ordini di volta in volta, senza conoscere la mossa successiva. Ordini? Come siete infantili. Rispondi sì o no! Sì. E questa era una scena con l'attrice Nicoletta Rizzi, che interpreta l'aliena Andromeda. Pensate tra l'altro che da poco, nell'aprile del 2014, è stata resa pubblica un'intervista inedita che Vannucchi aveva concesso il 18 febbraio del 78 a una televisione privata bolognese. L'argomento era proprio la fantascienza, di cui lui era un grande appassionato. E il signor Luigi Valerio, che era presente in studio, ha ripreso parte dell'intervista e adesso la potete vedere anche su YouTube. Ve la consiglio perché è molto interessante, perché lì Luigi Vannucchi è molto rilassato, cosa non abituale per lui, ed è una chiacchierata piacevolissima. E sempre nel 72 c'è un altro grande capolavoro della Rai, uno dei progetti di maggior impegno, uno degli sceneggiati che sono un fiore all'occhiello della produzione di quegli anni, I demoni, tratto dal romanzo di Dostoevskij, regia Sandro Bolchi. È la storia di una misteriosa setta della Russia zarista che vuole sovvertire l'ordine costituito mediante una serie di delitti, e Dostoevskij anche in questo caso, insomma, è avanti di qualche secolo, perché i parallelismi con le associazioni che ci sono oggi, come dire, i gruppi di potere sono evidenti. Vannucchi interpreta un personaggio particolare, l'enigmatico e diabolico Stavrogin, che alla fine, attenzione, si suicida. E quella che sentiamo è proprio una conversazione sul suicidio tra Stavrogin e Kirillov, che è interpretato da Warner Bentivegna. Voi amate i bambini? Sì. Vuol dire che amate anche la vita? Ma sì, amo anche la vita, e con Cristo. Eppure avete deciso di spararvi. Ma che vuol dire? Voi sapete come la penso. La morte non esiste, esiste solo la vita. E pensate che Vannucchi aveva dichiarato che si era innamorato di Stavrogin a 16 anni leggendo il romanzo I demoni di Dostoevskij. Adesso pensate a tutti i sedicenni che conoscete e chiedetevi quanti hanno letto I demoni di Dostoevskij. Vannucchi, si sa, è stato un grande attore, ma è stato un uomo, è un uomo di grandissima cultura, e noi stiamo facendo una carrellata sui principali sceneggiati televisivi interpretati da lui, perché di questi sceneggiati esistono le registrazioni, ma lui nel frattempo continua con grandi interpretazioni teatrali, delle quali purtroppo è rimasto poco, nulla. Negli anni 60 entra nella compagnia Gli Associati, nata dalla volontà di un gruppo di attori: Giancarlo Sbragia, Ivo Garrani, Sergio Fantoni, Valeria Ciangottini, e l'intento di questa compagnia è quello di emanciparsi dai teatri stabili che tengono gli attori sotto contratto. Insomma, è un rivoluzionario. Anche lì Gli Associati riescono a realizzare spettacoli di grande successo. Uno degli allestimenti più importanti di questa compagnia è del 77, la rappresentazione di Il Vizio Assurdo, tratto dal libro di memorie di Davide Laiolo, che racconta della sua amicizia con Cesare Pavese. Vedete che il tarlo del suicidio continua in qualche modo a riproporsi anche nelle scelte artistiche di Vannucchi. Il Vizio Assurdo è il suicidio, è l'autoannientamento, la volontà di autoannientamento di Pavese. Peraltro di questo progetto rimane anche un estratto audio. In nome della grande avanzata della parità di tutti, diceva Majakovskij, di tutti, davanti alla cultura, la libera parola. Eppure anche Majakovskij è stato stritolato dalla rivoluzione, si è suicidato e non è stato il solo. E questo tarlo si fa strada e diventa una tragica anticipazione di quello che purtroppo avviene il 30 agosto 1978, quando Luigi Vannucchi, nel pieno della sua maturità artistica e anche del successo, a soli 47 anni, si suicida con una overdose di barbiturici e di mista ad alcolici nella sua casa di Roma. Probabilmente non aveva retto al suo male di vivere, la sua inquietudine, e aveva dato dei segnali che non sono stati interpretati. Pensate a quante meravigliose interpretazioni avrebbe potuto regalarci ancora. E noi, per parlare di un grande attore, abbiamo bisogno di una attrice, di una brava attrice. Però abbiamo bisogno anche di una persona che questo grande attore lo conosca bene. E quindi noi abbiamo, per mia fortuna, Sabina Vannucchi, attrice di teatro e di cinema. Buongiorno, Sabina. Ciao Enrico, ciao a tutti, buongiorno e grazie per questa iniziativa a nome mio e del mio papà. Ecco, allora, tu sei attrice, sei riuscita a incrociare tuo padre sul palco nel 78, se non sbaglio era il Mercante di Venezia, giusto? Esattamente, sì sì, io facevo Jessica e lui faceva Shylock, il padre e figlia anche sì, in teatro. Certo. È stata per me un'esperienza meravigliosa, anche perché era il mio primo spettacolo da professionista, diciamo, in una compagnia importante. Avevo fatto altre cose, ma cose diverse, e poi soprattutto perché ovviamente c'era lui. Com'è recitare col proprio padre, con un padre che è un gigante della recitazione? Guarda, io spesso il monologo, famoso monologo di Shylock, spesso sì, me lo guardavo dalla quinta, perché era proprio, a prescindere che fosse mio papà, era proprio un grande attore e quindi c'era sempre da rubare, come dire. Poi il nostro rapporto non è mai stato conflittuale, e quindi sia dal punto di vista lavorativo e quindi di consigli, di relazioni all'interno della compagnia e tutto, è stato sempre molto positivo, e sia anche come nostro rapporto di padre e figlia che si trovavano a lavorare insieme. Senti, dammi una scheda di Vannucchi come attore, cercando, anche se è impossibile, insomma, di dimenticare la parentela, cioè tecnicamente che attore era? Rigoroso. Io l'aggettivo che uso sempre per lui è proprio questo, perché lui aveva una cultura pazzesca e di conseguenza aveva una conoscenza di quello che andava ad affrontare e gli strumenti per andare a cercare dove approfondire e come approfondire il personaggio che raramente ho riscontrato in attori più della nostra generazione, anche più giovani. Senti, e invece il ricordo di Luigi come padre, immagino ci sia, come dire, un senso di incompiuto che si prova già normalmente con tutte le persone, poi se una persona se ne va per sua decisione, immagino ci sia, come dire, una serie di interrogativi ulteriore. Assolutamente, e in più io dico quei 18 anni e mezzo che mi devono bastare per tutta la vita, nel senso che io ho coetanei e amici che stanno adesso i genitori ed è uno strazio comunque, e quindi immagina comunque per un papà a cui sei legatissimo, perché io e mio papà eravamo complici, eravamo molto molto legati e per sua scelta, e quindi con questa scelta che io ho sempre cercato di rispettare, anche se poi in certi momenti della vita, adesso il 16 è nata la mia seconda nipotina che si chiama Ginevra. Quando nascono i figli, dici peccato che non l'ha conosciuta. E mi manca, perché dici ma potevi essere qua, no? In tutto questo io sono riuscita ad occuparmi di lui quando sono diventata più grande di lui. Certo. Io ho 47 anni, io ho 48, ho detto... Certo. Adesso siamo in un terreno sconosciuto. Sono coetanea di mio padre. Sabina, sei stata gentilissima, ti ringrazio e complimenti per quello che stai facendo nella tua carriera, ma anche per cercare di allontanare l'oblio da uno dei giganti della recitazione italiana. Grazie Sabina. Grazie mille a voi, grazie. Avere 20 anni è chiaro che in astratto è meglio che averne 50-60, però c'è il rammarico che ci sono molti ragazzi oggi che non hanno mai visto e sentito recitare attori come Luigi Vannucchi, e spero che abbiano la profondità interiore e la curiosità per andare a vedere di cosa sto parlando. Sto parlando di una persona che ha avuto grandi colpi d'ala anche grazie non solo al suo talento ma anche grazie alla sua grande cultura, un'altra parola che oggi non usa quasi più nessuno. E poi c'è stato questo colpo d'ala finale verso il basso, o se preferite verso un'altra dimensione, la storia del grande Luigi Vannucchi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.